Libro decimo. Io conoscerò te che mi conosci. Io ti conoscerò come tu mi conosci. Tu, potenza dell'anima, entra in lei. Portala alla tua altezza, perché senza macchia né ruga ti si offra a essere posseduta. Questa è la mia speranza e perciò parlo. È di questa speranza che gioisco, ogni volta che la mia gioia è vera. E quanto alle altre cose in questa vita, più si piange per loro e meno sono degne di rimpianto, e tanto più ne sono degne quanto meno si piange per loro. Ecco, tu ami la verità, perché chi fa la verità viene alla luce. Io la farò nel mio cuore, davanti a te in questa confessione, e anche su queste pagine, però, davanti a molti testimoni. E del resto, che segreti avrai per te, Signore, che coi tuoi occhi denudi l'abisso della coscienza umana, anche se non volessi confessarmi a te? Nasconderei te a me, non viceversa. Ora poi che il mio pianto testimonia il fastidio che provo per me stesso, tu sei la luce e il termine del desiderio, del piacere, dell'amore, fino a farmi arrossire di me stesso, a fuggire da me per abbracciare te, a non volere piacere né a me né a te se non per quello che ho da te. Sono tutto davanti a te, Signore, comunque io sia. Se sono malvagio, confessarmi a te altro non è che dispiacermi. Se devoto, altro non è che rendertene merito, perché tu, Signore, benedici il giusto, ma prima, quando ancora è empio, lo giustifichi. Perciò la mia confessione al tuo cospetto, Dio mio, si fa in silenzio, e non si fa in silenzio. Tace la voce e grida il sentimento. E io niente di vero dico agli uomini che tu non abbia saputo già prima. E tu da me niente vieni a sapere che non m'abbia tu stesso detto prima. Ma cosa ho in comune io con la gente per farle ascoltare le mie confessioni come se quelli potessero guarire tutte le mie malinconie? Ma perché vogliono sapere da me chi sono io, se non vogliono sapere da te chi sono loro? E come fanno a sapere se dico il vero quando mi sentono parlare di me stesso, quando non c'è uomo che sappia quel che passa in uomo fuorché lo spirito dell'uomo che è in lui? Ma se ascoltassero te parlare di se stessi, non potrebbero dire Dio mente. Perché cos'è ascoltare da te parole su se stessi, se non conoscere se stessi? E chi poi si conosce e dice è falso, mente egli stesso. Ma poiché tutto crede l'amore, almeno fra le persone che stringe in un unico vincolo, anch'io, Signore, ti faccio queste confessioni per giungere all'orecchio di uomini ai quali non posso far toccare con mano la loro verità. Mi crederanno quelli a cui l'amore apre le orecchie. Ma tu, mio medico interiore, fammi vedere con chiarezza il frutto di queste confessioni. Ma io su queste pagine confesso davanti a te, anche agli uomini, chi sono ora, non più chi ero. Con quale frutto allora, mio Signore? Ogni giorno si confessa a te la mia coscienza, che s'affida alla speranza del tuo benigno perdono più che alla sua innocenza. Dimmi, con quale frutto? L'altro, quello del mio passato, l'ho visto, ne ho già detto. Ma, ecco, chi sono io nello stesso momento nel quale scrivo queste confessioni? Molti certo vorrebbero saperlo, che mi hanno conosciuto e non mi hanno conosciuto, che hanno sentito dire qualcosa da me o anche solo di me, ma non hanno l'orecchio appoggiato al mio cuore, dove io sono quello che sono. Vogliono dunque sentire da me, sentirmi confessare quello che io sono intimamente, quello che sono là dove non possono arrivare con gli occhi e con le orecchie, e neppure col pensiero. Sono disposti a credere, ma potranno conoscere? L'amore che li fa ben disposti, infatti, glielo dice che non mento in questa confessione di me stesso. E ancora, è questo amore in loro a credermi. Ma quale sarà il frutto di questo desiderio? Che si rallegrino con me nell'apprendere il dono che mi fai di darmi accesso a te e preghino per me all'udire quanto mi ritarda il mio peso? A persone del genere io mostrerò me stesso. Non è un piccolo frutto. Mio Signore Dio, se molti ti ringraziano per noi e molti per noi ti pregano, possa la loro mente fraterna amare in me quello che tu insegni ad amare, piangere in me quello che insegni a piangere. Questo farà la mente di un fratello, non quella di un estraneo o di figli di un altro che dalla bocca sputano vanità e che stringono in mano l'ingiustizia. No, solo quella di un fratello che nella sua approvazione sia felice per me e nella disapprovazione per me si rattristi. Uno che mi approvi o mi disapprovi, mi ama, tuttavia. A chi è fatto così, io mostrerò me stesso. Il mio bene gli allargherà il respiro, il mio male lo farà sospirare. Ciò che è bene per me, sei tu che l'hai voluto, tu che me l'hai donato. Ciò che è male, sono peccati miei e condanne tue. Sentiranno il respiro allargarsi nel bene e per il male sospireranno, e l'inno e il pianto saliranno insieme fino a te. Su da questi turiboli che sono i cuori fraterni. Ma tu, Signore, se gradisci il profumo del tuo tempio, abbi pietà di me. Secondo la tua misericordia immensa, in grazia del tuo nome, tu che non abbandoni mai ciò che cominci, porta alla sua pienezza ciò che in me è incompiuto. Ecco, il frutto che verrà dalle mie confessioni, non di quello che ero, ma di quello che sono, se lo farò non solo davanti a te, con euforia segreta e con tremore, con segreto sconforto e con speranza, ma anche all'orecchie di quelli che fra i figli degli uomini che credono, che condividono le mie gioie, la mia mortalità, dei miei concittadini, come me stranieri, itineranti, di quelli venuti prima di me e di quelli che verranno dopo, e dei miei compagni di strada. Ecco, sono questi i tuoi servi, miei fratelli, i figli tuoi che tu hai voluto darmi per padroni, tu che mi hai comandato di servire se voglio vivere con te e di te. È questa tua parola. Non sarebbe bastata se ti fossi limitato a insegnarla parlando, senza mostrarmi la via con l'azione. E anch'io lo faccio con atti e con parole, lo faccio sotto le tue ali, e il rischio è immenso. se non che l'anima si ripiega sotto le tue ali e la mia instabilità ti è nota. Io sono un fanciullino ancora, ma mio padre è vivo e ho un protettore tutto per me. È lui stesso, lui che mi ha generato, a proteggermi. Tu stesso sei ogni mio bene, tu, onnipotente, che sei con me anche prima che io sia con te. E allora, alle persone come quelle che mi comandi di servire, io mostrerò non più quello che ero, ma quello che sono già e che sono ancora. Ma neppure io mi giudico. E così possa essere ascoltato. Perché sei tu, Signore, a giudicarmi, già. È vero che nessun uomo conosce ciò che riguarda un uomo se non lo spirito di quell'uomo che è in lui. Ma c'è qualcosa in un uomo che perfino lo spirito che è in lui non conosce. Ma tu, Signore, sai tutto. Perché sei tu che l'hai fatto. Io poi, per quanto al tuo cospetto mi disprezzi e mi senta terra e cenere, so qualcosa di te che di me ignoro. Certo, ora vediamo attraverso uno specchio e in enigma, non ancora faccia a faccia. Ed è per questo che, finché vado errando lontano da te, ho presente me stesso più che te. Eppure so di te che sei assolutamente inviolabile. Quanto a me, invece, ignoro a quali tentazioni io sia in grado di resistere e a quali non lo sia. E la speranza ce n'è, perché sei di parola tu e non permetti che siamo tentati oltre le nostre forze. Ma con la tentazione crei anche lo scampo, no? Perché possiamo resistere. Confesserò quello che so di me. Confesserò anche quello che non so. Perché anche ciò che so di me lo so per tua illuminazione. E ciò che ignoro lo ignorerò fino a quando il mio buio sarà come disteso mezzogiorno alla luce del tuo volto. Ciò di cui in coscienza io non dubito, Signore, è che amo te. La tua parola mi ha colpito nel cuore e io ti ho amato. Ma anche il cielo e la terra e tutto quello che contengono mi dicono di amarti. E non cessano di dirlo a ogni uomo perché non ci sia scusa per nessuno. Ma cosa amo amando te? Non la grazia di un corpo, non il fascino del mondo, non la candida luce amica di questi occhi, non la carezza melodiosa dei canti, non il profumo dei fiori o di balsami e aromi, non la manna e il miele degli abbracci e dei desideri carnali. Non è questo che amo quando amo il mio Dio. Eppure amo. Una sorta di luce, una sorta di voce e di profumo e di cibo, una sorta di abbraccio quando amo il mio Dio, luce, voce, profumo, cibo e abbraccio dell'uomo interiore, dove ogni cosa splende e risuona e profuma per l'anima. E da lei sola si fa assaporare e stringere, e dove c'è luce non diffusa nello spazio, e musica non rapita dal tempo, e profumo che il vento non disperde, e sapore che la nausea non scema, e un abbraccio che la sazietà non scioglie. Questo è quello che amo quando amo il mio Dio. E che significa questo? L'ho chiesto alla terra e mi ha detto: non sono io. E tutte le cose che essa contiene hanno fatto la stessa confessione. L'ho chiesto al mare e ai suoi abissi e ai rettili dell'anima viva e mi hanno risposto: non siamo noi il tuo Dio, cerca sopra di noi. L'ho chiesto al sussurro dei venti, allora all'intero mondo dell'aria, coi suoi abitanti, e mi ha risposto: sbaglia, Anassimene, non sono Dio. L'ho chiesto al cielo, al sole, alla luna, alle stelle, neppure noi siamo il Dio che tu cerchi. E ho detto a tutte le cose del mondo circostante, nelle porte della mia carne: parlatemi del Dio che voi non siete, parlatemi di Lui. E a gran voce hanno gridato: è Lui che ci ha fatte. Io le interrogavo con tutta la mia tensione e la loro risposta era l'idea in cui ciascuna si offriva al mio sguardo. E poi mi sono rivolto a me stesso e mi sono chiesto: ma tu chi sei? Un uomo. Ecco, qui, corpo e anima, l'uno esterno, l'altro interiore. Ma quale fra queste due cose è quella con cui avrei dovuto cercare il mio Dio? Che già avevo cercato col corpo dalla terra fino al cielo, fin dove arrivavano i messaggeri dei miei occhi. L'interiore è migliore. L'uomo interiore viene a conoscenza di questo servendosi dell'uomo esteriore. Io, l'io interiore, io, la mente, lo so mediante il mio corpo sensibile. Ecco, ho chiesto del mio Dio alla massa dell'universo e mi ha risposto: non sono io, ma è Lui che mi ha fatto. E dunque oltrepasserò anche questa mia potenza naturale, ascendendo per gradi a quello che mi ha fatto. Ed eccomi giunto ai campi e ai vasti palazzi della memoria, dove si accumulano tesori di innumerevoli immagini per ogni sorta di oggetti della percezione. Ecco, lì è custodito tutto ciò che ci avviene di pensare, amplificando o riducendo o comunque variando i dati dei sensi e quant'altro vi sia stato riposto in consegna, purché l'ubrio non l'abbia ancora inghiottito e sepolto. E lì mi basta chiedere, quando mi ci trovo, che mi si presenti qualunque cosa io desideri. Alcune arrivano subito, altre si fanno cercare più a lungo, come se occorresse stanarle da più segreti ricettacoli, no? Altre ancora irrompono in massa e mentre non le si cerca affatto saltano fuori, quasi a dire: siamo noi per caso? E io con la mano del cuore le scaccio dalla sua vista, dal ricordo, finché lo sguardo non si snebbi e non appaia proprio la cosa nascosta che cercavo. Altre cose si offrono docilmente di seguito, senza interruzioni, nell'ordine in cui erano state richieste, così che le precedenti fanno posto alle successive per tornare ai loro depositi, pronti a uscire di nuovo, a mio piacere. Ecco, tutto questo avviene quando recito a memoria. Lì si conservano, distinte per genere, tutte le cose che vi sono entrate, ciascuna dall'ingresso suo proprio, la luce e tutti i colori e le forme dei corpi, dagli occhi, orecchie, ogni sorta di suoni, tutti gli odori dalle narici e tutti i sapori dalla bocca, e attraverso la sensibilità di tutto il corpo, il duro, il molle, il caldo, il freddo, il liscio quanto ruvido, il peso e leggerezza, insomma, tutte le qualità dei corpi, esterne o interne che siano. E il grande antro della memoria tutto questo accoglie in certe sue pieghe segrete, ineffabili, perché si possa all'occorrenza richiamarlo e disporne. E ciascuna cosa che vi si ripone ha il suo ingresso riservato. Certo, non sono le cose stesse a entrarvi, sono le immagini delle cose percepite che stanno lì. pronte a offrirsi al pensiero che le richiama alla mente. E chi può dire quale sia il loro segreto di fabbricazione? Palese è solo quali sono i sensi che le hanno catturate e consegnate in custodia. Io posso anche starmene in silenzio, no? Al buio. Ma se voglio, rimetto a fuoco i colori nella memoria e distingo il bianco dal nero e da qualunque altro colore, e non accade che i suoni si intromettano disturbandomi nella considerazione di ciò che ho appreso dalla vista. Eppure anch'essi si trovano lì, ma sono come latenti, no? In disparte, tanto che se mi aggrada di richiamare anche loro, subito si presentano. E io, senza muovere la lingua, a gola muta, canto finché ne ho voglia. E a loro volta le immagini di colore, pur essendo ancora lì, non vengono a interferire, a disturbarmi nella mia rassegna di quest'altro tesoro confluito alle orecchie. E così via per tutte le altre cose, immesse dagli altri sensi e lì ammassate. Le richiamo alla memoria, a mio piacimento, senza annusarlo, distingo il profumo dei gigli da quello delle viole. E mi basta il ricordo per continuare a preferire il miele al decotto di mosto e il liscio al ruvido, senza nulla gustare né palpare al momento. E tutte queste operazioni io le eseguo al mio interno, nella corte grandiosa della mia memoria. Lì cielo e terra e mare restano a mia disposizione. Con tutto ciò di cui sono riuscito ad avvertire l'esistenza, tranne quello che ho dimenticato, là incontro anche me stesso e mi vedo rivivere nelle mie azioni, nel tempo, nel luogo e nello stato d'animo in cui le ho compiute. Là c'è tutto quello che ricordo d'avere vissuto ho creduto anche, sì, da questa ricca provvista, cioè mi vengono le immagini non solo di cose incontrate dall'esperienza, ma anche di cose semplicemente credute sulla base di queste. Immagini via via, sempre nuove, che io vado tessendo a quelle passate, così che ne emerga la trama del futuro. Azioni, eventi, speranze. E tutto questo è come se mi fosse presente durante la mia meditazione. Farò questo e quello, dico fra me, nel vastissimo grembo della mia mente, folto di immagini di tante e tali cose grandi, e questo o quello si compie. Oh, se accadesse questo o quello, Dio ci scampi da questo o da quello, così dico fra me. E nel dirlo trovo già pronte a uscire dal tesoro della memoria le immagini di tutte le cose che dico. E se queste venissero a mancare, non potrei dire alcosa alcuna. È grande questa potenza della memoria. È troppo, Dio mio, una cripta profonda e sconfinata. Chi può toccarne il fondo? Ed è una potenza della mia mente. Ecco, fa parte della mia natura. Eppure io stesso non comprendo tutto quello che sono. La mente, dunque, è troppo angusta per contenere se stessa. E dov'è allora ciò che non comprende di sé? Deve essere in lei stessa, non fuori di lei. E allora in che senso non lo comprende? Una gran meraviglia mi nasce da questo pensiero. E resto stupefatto. Vanno ad ammirare le montagne altissime, le onde paurose del mare, il bacino dei grandi fiumi, l'orizzonte dell'oceano sconfinato, il giro tondo delle stelle, e trascurano se stessi, gli uomini. E non si meravigliano che io parli di tutte queste cose senza vederle con gli occhi. Eppure non potrei parlarne affatto se non avessi entro di me spazi così grandiosi da spalancarmi davanti nella memoria le montagne, i fiumi, le onde e le stelle che vidi e l'oceano di cui sentii solo parlare. È come se li avessi fuori di me nel giro dello sguardo. Eppure il mio sguardo non le ha inghiottite quando coi miei occhi le ho vedute, e sono le cose stesse che ritrovo in me, bensì le loro immagini. E di ciascuna io conosco l'origine, il senso che ne ha prodotto l'impressione. Ma non è solo questo che si porta in grembo, è questa capacità smisurata della memoria. Qui c'è anche tutto ciò che si è appreso dalle discipline liberali e che non si è ancora perduto. È come relegato, no? In un più interno luogo, che non ha luogo. E in questo caso io non ne porto le immagini, ma le cose stesse. Cos'è la letteratura? E la dialettica? Quanti tipi di questioni ci sono? Sono tutte cose che io ho nella memoria, per quel tanto che ne so. Non mi sono limitato a trattenere le immagini, lasciando fuori le cose stesse. Ad esempio una voce, no? Che risuona all'orecchio e poi passa, ma imprime una traccia buona a richiamarla e quasi a farla ancora risuonare quando ormai tace. O un odore che svanisce nel vento e mentre passa colpisce l'olfatto e così trasmette alla memoria, no, un'immagine di sé, revocabile al proprio piacimento, oppure un cibo che ormai nel ventre non ha più sapore, eppure quasi lo si riassapora nella memoria. O una cosa sensibile al tatto che, anche una volta separata dal nostro corpo, tocchiamo nell'immaginazione, no? Ricordandola. Ecco, non sono le cose stesse allora a introdursi nella memoria, ma solo le loro immagini. Ed è una meraviglia la rapidità con cui queste vengono afferrate e la sorta di cellette in cui vengono riposte e come nel ricordo si fanno presenti. Anche le mie emozioni contiene questa stessa memoria. Non come sono vissute dalla mente quando ne è presa, ma in modo assai diverso, insomma, caratteristico della memoria. Ecco, così io, senza gioia, mi ricordo d'aver gioito. E senza tristezza rievoco la mia passata tristezza. Senza paura richiamo alla mente le paure che talvolta ho avuto e serbo ancora nella memoria dei desideri antichi, senza più averne. Anzi, al contrario, no? Talvolta mi rallegra il ricordo della mia tristezza e quello della gioia passata mi rattrista. Questo non deve sorprendere se si tratta del corpo, perché il corpo è una cosa e un'altra è la mente. Ma che dire, nel caso di cui parliamo ora, se la mente altro non è che la memoria stessa? E infatti, assegnando il compito di mandare a memoria qualcosa, noi diciamo, cerca di tenerlo a mente. E quando dimentichiamo, non l'ho tenuto in mente, o m'è uscito di mente, chiamando mente la memoria stessa. Ma se è così, che significa questo? Perché nel lieto ricordo della mia passata tristezza la mente ha piacere e la memoria contiene tristezza? Oppure la mente è lieta di questo piacere che ha, mentre la memoria non si lascia rattristare dalla tristezza che contiene? Ma che la memoria non appartenga alla mente? No, è una tesi insostenibile. No, la memoria è in un certo senso il ventre della mente, e cibo dolce o amaro, la gioia, la tristezza, una volta affidate alla memoria, possono esservi custodite, ma come cose passate nel ventre non possono più avere sapore. Ecco, credere che i due processi siano proprio simili sarebbe ridicolo. Ma non sono neppure completamente diversi, Ma ecco, ricorro alla memoria anche quando dico che quattro sono le turbe della mente, no? Desiderio, gioia, paura, tristezza. E per quanto io possa discuterne, analizzando ciascuna secondo la specie del suo genere d'appartenenza e dandone definizioni, è lì che trovo le cose da dire e di lì le traggo. E tuttavia non mi sento affatto sconvolto o turbato quando le richiamo alla mente per passarle in rassegna. È pur lì che si trovano, prima d'essere revocate e riprese in considerazione da parte mia. Di lì, appunto per questo, il ricordo ha potuto cavarle. E forse allora ricordare è come ruminare, no? Far tornare su dalla memoria cose del genere come cibo dal ventre. E ma allora perché il dolce sapore della gioia o quello amaro della tristezza non lo si sente in bocca, al pensiero, quando le si rievoca per discuterne? È per questo che l'analogia è solo parziale. È qui la differenza. Già, chi ne parlerebbe volentieri se ogni volta che uno nomina la tristezza o la paura dovesse per forza rattristarsi o rabbrividire? E tuttavia non ne parleremmo se non trovassimo registrati nella nostra memoria non solo i suoni dei loro nomi, cioè le immagini che ne sono state impresse dai sensi, ma anche le nozioni delle cose stesse. Ecco. E queste non vi sono certamente entrate per le porte della carne, ma le sono state affidate dalla mente stessa che le ha apprese attraverso le passioni vissute, no? O vi si sono conservate anche involontariamente. Ma se è mediante immagini o no che si conservano, non è facile dirlo, eh? Certo, di una pietra o del sole mi basta dire il nome, no? Per suscitare le immagini nella memoria. Nomino il dolore fisico in sua assenza mentre non lo provo. Ma se non avessi presente alla memoria una sua immagine, non saprei di che cosa parlo. E nel disquisirne non sarei neppure in grado di distinguerlo dal piacere. Nomino la salute fisica mentre sono fisicamente sano, la cosa stessa mi è presente. Ma se non ne avessi neanche un'immagine nella memoria, non ricorderei affatto il significato di quel nome, no? O di quella sequenza di suoni. E così i malati, sentendo nominare la salute, non capirebbero di che cosa si parla. Seppur nella mancanza fisica della cosa stessa non avessero il potere di conservarne viva e inalterata l'immagine nella memoria. Ecco, pronuncio i nomi dei numeri che usiamo per contare. Ed essi stessi, non le loro immagini, mi si presentano alla memoria. Nomino l'immagine del sole ed eccola presente. Non l'immagine di questa immagine, ma essa stessa ho evocato. È proprio questa che si offre prontamente al mio richiamo. Nomino la memoria e riconosco ciò che nomino. E dove lo riconosco, se non nella memoria stessa? E anche lei sarebbe presente a se stessa solo in immagine? O non piuttosto in se stessa? Sì. Ma anche quando nomino l'oblio, no? Riconosco la cosa di cui parlo. Come farei se non me lo ricordassi? Non semplicemente della parola, voglio dire, del suo suono, ma della cosa che essa significa. Ecco, dimenticata questa, anche il valore del suono, io non vorrei a riconoscerlo. Dunque, quando ho memoria della memoria, questa è presente in se stessa. Ma quando ho memoria dell'oblio, entrambi sono presenti, memoria e oblio, la memoria con cui ricordo e l'oblio che ricordo. Ma che cos'è l'oblio se non assenza di memoria? Ma in che senso dunque è presente tanto da poterlo ricordare se lui è presente ed è assente nella memoria? Eppure se serviamo memoria di ciò che ricordiamo, e se d'altra parte il ricordo dell'oblio non potremmo neppure, quando ne sentiamo il nome, riconoscerne il significato, allora anche dell'oblio si serba memoria. E così ci è presente, E non la dimentichiamo questa assenza per cui dimentichiamo, ma questo cosa vuol dire? A quanto sembra, anche quando ricordiamo l'oblio, non è la stessa cosa che si trova nella memoria, ma una sua immagine, ecco, perché la presenza essenziale dell'oblio ce lo farebbe dimenticare e non già ricordare. Boh. Infine, chi saprà affrontare questa indagine e capire come stanno veramente le cose? Che fatica, mio signore, questa di scavare in me stesso. Mi sono fatto a me stesso terra piena di sudore. E non sono le piaghe del cielo e gli spazi interstellari o le bilance su cui si libra la terra che stiamo studiando, calcolando. Sono io che ricordo. Io la mente. Non fa meraviglia che sia lontano da me tutto ciò che io non sono. Ma che cosa mi è più vicino di me stesso? E tuttavia la potenza della mia memoria non si lascia comprendere da me, che pure senza di lei non potrei nemmeno chiamarmi me stesso. Perché cosa dovrei dire quando sono certo di avere memoria dell'oblio? Che ciò che ricordo non l'ho nella memoria. O che l'oblio inerisce alla memoria proprio perché io non dimentichi. Entrambe le proposizioni sono perfettamente assurde. Ma ce n'è una terza, eh? Vediamola. La mia memoria potrebbe conservare l'immagine dell'oblio e non l'oblio stesso, quando lo ricordo. Sì, ma come posso sostenerlo anche questo? Quando si imprime nella memoria l'immagine di una cosa, quale che sia, è sempre necessaria la presenza della cosa stessa, perché se ne imprima l'immagine. Così, ad esempio, mi ricordo di Cartagine, di tutti i luoghi in cui sono stato, dei volti che ho veduto, dei dati di tutti gli altri sensi e anche della salute e del dolore. Mi si offrono in carne e ossa queste cose, no? E la memoria ne catturò le immagini per consentirmi di averle presenti e di penetrarle e riesaminarle con lo sguardo interiore quando le avessi rievocate, ormai assenti. Se dunque l'oblio si conserva nella memoria attraverso una sua immagine e non in se stesso, bisogna che sia stato realmente presente per lasciare questa immagine. Ma se fosse stato presente, come avrebbe potuto inscrivere nella memoria la sua immagine lui che con la sua sola presenza cancella tutto ciò che non vi trova già segnato? Eppure ne sono certo, in un modo o nell'altro, per incomprensibile e inesplicabile che sia, io, perfino dell'oblio, serbo memoria in questa rovina di ricordi. Oh, grande è questa potenza della memoria, c'è qualcosa che fa paura, Dio mio, in questa sua profonda e infinita complessità. E tutto questo è la mente, sono io stesso. Dio mio, che cosa sono io? Dimmi, qual è la mia natura? Un'esistenza varia e polimorfa, smisurata, veemente. Eccoli, i campi e gli antri e le caverne innumerevoli della mia memoria, stipati d'ogni sorta di cose, innumerevoli. E queste sono lì, presenti solo in immagine, tutti i corpi, ad esempio, o in se stesse, come le capacità professionali, o sotto qualche specie di nozione o notazione, come gli stati d'animo. Perché anche quando non sono vissuti, sono pure tenuti a mente, no? Se è nella mente tutto ciò che è nella memoria. E io passo in rassegna tutte queste cose a volo, penetrando qua e là per quanto posso, ma non finiscono mai di scorrere. Tanta è la potenza della memoria, tanta la vita implicita dell'uomo, per cui vivere è morire. E cosa devo fare allora? Mia vita vera. Tu, Dimmi, mio Dio. Passerò oltre. Anche oltre questa mia potenza che si chiama memoria. Ecco, io la trascenderò per protendermi verso di te, dolce lume. Che cosa dici ora? Sì, in questa ascesa verso di te che dimori più in alto, io salirò per la mia stessa mente. Trascenderò anche questa mia potenza che si chiama memoria nel desiderio di incontrarti, qualunque sia la via di questo incontro, e di aderire a te, quale che sia questa adesione. In fondo, anche le bestie, gli uccelli hanno memoria, altrimenti non ritroverebbero i loro nidi e le molte altre cose consuete. E non vi sono consuetudini che si possano acquistare senza memoria. Ecco, trascenderò dunque anche la memoria per incontrare Lui che mi ha distinto dai quadrupedi e mi ha fatto più sapiente degli alati. Trascenderò anche la memoria per trovarti. Ma dove, vero bene, dolcissimo riposo, dove? Se non è nel raggio della memoria che ti trovo, vuol dire che ero in memore di te. E come posso trovarti se di te non ho memoria? Una donna aveva perduto una dracma e la cercò con la lucerna, ma non l'avrebbe trovata se non avesse serbato la memoria. Perché come avrebbe fatto a sapere che quella era, trovandola, se non l'aveva già in mente? Molte cose perdute mi ricordo di avere cercato e trovato, così so anche che se durante la ricerca mi si chiedeva «è questo per caso? È quello?» io rispondevo di no, finché non mi veniva presentata proprio la cosa che stavo cercando. E se non l'avessi tenuta in mente, io non l'avrei trovata, neppure se me l'avessero messa sotto gli occhi, perché non l'avrei comunque riconosciuta. E accade sempre così, eh? Quando cerchiamo e ritroviamo una cosa perduta, se ad esempio perdiamo di vista una cosa qualunque, un oggetto visibile, ma senza che ci esca di mente, la sua immagine ci si conserva dentro. E noi cerchiamo, no? Finché non ci sia restituita alla vista. Ecco, appena la si trova, la si riconosce dall'immagine che se ne aveva dentro, e non si ha l'uso di chiamare ritrovata una cosa che pareva perduta se non la si riconosce. Né si può riconoscere una cosa se non se ne ha memoria. Ecco, la cosa che per gli occhi non esisteva più era in salvo nella memoria. E quando è la memoria stessa a smarrire qualcosa? Come quando accade che cerchiamo di ricordare qualcosa che avevamo dimenticato? Ecco, dove cerchiamo in effetti se non nella memoria stessa? E se questa ci si presenta una cosa, no, per un'altra, la respingiamo finché non appaia quella che cercavamo. E quando appare diciamo, eccola, è questa. Che cosa non diremmo se non la riconoscessimo? E non la riconosceremmo se non avessimo serbato la memoria? Dunque è vero, ce ne eravamo dimenticati, ma non del tutto, eh? Come se la parte che non ci era uscita di mente cercasse l'altra. E la memoria, sapendo che un tempo l'una si tirava dietro l'altra e quasi sentendosi azzoppata nel moncone di questa abitudine sollecitasse la restituzione della parte mancante, così se abbiamo sotto gli occhi o in mente una persona che ci è nota e cerchiamo di ricordarci il suo nome, non riusciamo ad associarvene un altro, per quanti ce ne possano venire in mente, li respingiamo, no? Uno per uno, finché non si presenta quello con cui eravamo abituati a pensare a quella persona. E in quel nome la sua consueta immagine si acquieta, quasi finalmente combaciandovi. E da dove torna a presentarsi quel nome, se non dalla memoria stessa? E perché viene da lì che lo riconosciamo? È perché viene da lì che lo riconosciamo, anche quando sono altri a suggerircelo. Non ci crediamo infatti come a casa cosa nuova, ma ammettiamo che è proprio quello che ci viene detto, ora che ce ne ricordiamo. Se ci fosse stato completamente cancellato dalla mente, non lo riconosceremmo neppure dietro suggerimento, e in realtà non è ancora del tutto dimenticata una cosa che ricordiamo d'aver dimenticato. Una cosa che ci manca non si può neppure cercarla se l'abbiamo dimenticata del tutto. E come ti cerco dunque, mio Signore? Cercando te, mio Dio, io cerco la felicità. Ti cercherò perché l'anima viva, ecco, perché vive dell'anima il mio corpo e di te vive l'anima. Ecco, ma come la cerco la felicità? Finché io non dica basta, eccola. Io non ce l'ho. Ma bisogna dire come la cerco. Se è perché il cuore ne ha memoria, quasi l'avesse dimenticata senza scordare d'averla dimenticata, o per il desiderio di conoscere l'ignoto, sia che non l'abbia conosciuta mai, sia che a tal punto me ne sia scordato da non avere memoria di questo oblio. Ma non è la felicità che tutti vogliono. Non c'è assolutamente nessuno che non la desideri. E dove l'hanno conosciuta per desiderarla così? Dove l'hanno vista per innamorarsene? Eppure noi l'abbiamo, io non lo so come. E altro è possederla ora, e ora essere felici. Altro è vivere di speranza felicemente. Ecco, è quest'idea che mi sto sforzando di capire, se si trova nella memoria. Perché se è lì, eravamo felici una volta. Io non mi chiedo ora se lo eravamo come individui, ciascuno per sé, o tutti nell'uomo che peccò per primo, in cui tutti noi siamo morti, da cui siamo nati infelici. Ma chiedo se è nella memoria quella vita felice. Perché non l'ameremmo se non sapessimo cos'è. Ne abbiamo udito il nome e tutti confessiamo di tendere alla cosa, non la parola, è chiaro? Quella non piace al greco che la sente pronunciare in latino, perché non sa cosa significa. Ma a noi piace, e anche a lui, se la sente pronunciare in greco, perché non è greca né latina la cosa stessa. Una cosa che tutti si consumano dalla voglia di avere, greci, latini, qualunque sia quella che parlano fra le lingue della terra. È cosa a tutti nota. E se in un solo colpo si potesse porla a tutti la domanda se desiderano la felicità, risponderebbero senza dubbio a una voce: sì. Così non sarebbe se non serbassero memoria della cosa che ha questo nome. Ma dove? E quando ho appreso che cos'era la felicità della mia vita per averne il ricordo e provarne amore e desiderio? E non soltanto io o poche altre persone, ma tutti vogliamo essere felici. Se non ne avessimo ben precisa nozione, non ne avremmo una volontà tanto decisa. Ma che significa questo? Prova a chiedere a due persone se vogliono arruolarsi. E uno magari risponderà di sì e l'altro di no. Ma chiedi se vogliono essere felici. Subito tutti e due ti diranno senza dubbio sì. E anzi, non hanno altro scopo che questo, d'essere felici nel volersi o non volersi arruolare. Chi si diletta di una cosa e chi di un'altra. E così tutti si trovano d'accordo nel desiderio di felicità, così come lo sarebbero nel rispondere all'unisono se interrogati che desiderano godersi la vita. Ecco, questo godimento che chiamano vita felice. E anche se ciascuno ha il suo modo di godersela, uno solo è lo scopo che tutti si sforzano di conseguire. Questo, la gioia di vivere. Ma nessuno può dire che cosa sia. E per questo la si ritrova nella memoria, la si riconosce al solo udire il nome della felicità. Via, via, lontano dal cuore del tuo servo a che a te si confida, caccialo via il pensiero che basti a farmi felice il godimento di una gioia qualunque. C'è una gioia che non è data agli atei, ma a coloro che di te si fanno un disinteressato culto. Sei tu la loro gioia. Ed è già questa la vita felice. La gioia che si cerca in te deriva da te e per te si prova. Ecco, questa, non un'altra. Chi crede che ve ne sia un'altra cerca altre gioie, ma non quelle vere. Ma è pur sempre un'immagine di gioia a orientare la sua volontà. A questa non volta le spalle. Ecco, non è certo allora che tutti vogliano essere felici, perché chi non cerca il suo piacere in te, che sei la sola vita felice, in realtà non cerca la felicità. O forse sì, tutti la vogliono, ma i desideri della carne sono opposti allo spirito, no? Quelli dello spirito alla carne, e così non fanno ciò che vogliono. E per questo perdono forza fino ad accontentarsi di ciò che è in loro potere. Già, io chiedo a ciascuno, preferisci godere del falso o del vero? Nessuno ha qualche dubbio nel pronunciarsi per il vero, no? Non più di quanti ne abbia ad ammettere che desidera essere felice. Perché appunto il piacere del vero, la felicità. Dunque è gioire, dite, che sei la verità. Luce e salvezza dei miei occhi, mio Dio. Ecco, questa felicità tutti la vogliono. Questa vita che è la sola felice, tutti vogliono godere del vero. Molti ho incontrato che volevano ingannare, ma che volesse farsi ingannare nessuno. Dove hanno appreso allora che cosa sia vivere felicemente, se non dove hanno appreso anche che cos'è verità? Perché l'amano? È chiaro, se non vogliono essere ingannati, amando la felicità che è il piacere della verità. Debbono pure amare anche la verità, ma come potrebbero se non ne avessero un'idea nella memoria? E allora perché non riescono a goderne? Perché non sono felici? Perché si occupano troppo di altre cose? Anche se non vi trovano alcuna felicità paragonabile a quella di cui conservano un ricordo così tenue. Sì, c'è ancora un po' di luce fra gli uomini. Presto, presto si mettano in cammino affinché il buio non li sorprenda. Eppure la verità genera odio, e chi l'annuncia in tuo nome si fa nemico agli uomini. Ma perché? Se è vero che essi amano la felicità, che è soltanto il piacere della verità, è evidentemente perché si ama la verità a tal punto che se uno ama un'altra cosa pretende che sia quella la verità. E siccome chiunque detesta ingannarsi, uno rifiuta di farsi convincere che è in errore. Perciò odiano la verità, per amore di quella che credono verità. Ne amano lo splendore, ne odiano l'accusa. Già. Siccome non vogliono essere ingannati, ma vogliono ingannare, l'amano quando indica se stessa e la odiano quando punta il dito contro di loro. E lei li tratterà allo stesso modo. Essi rifiutano di essere da lei scoperti e lei li scoprirà a loro dispetto, senza farsi scoprire da loro. Così, anche così, è l'animo umano. Così cieco, no? Labile, così brutto e ignobile, che vuole restare così nascosto. Ma non che qualche cosa resti nascosto a lui, ma ne viene ripagato come merita. Non lui resta nascosto alla verità, ma la verità a lui. Eppure, anche così, in questa sua infelice condizione, preferisce le cose vere per goderne a quelle false. Felice dunque sarà, se mai potrà godersi senza impacci fastidiosi, l'unica verità per cui è vera ogni cosa vera. Ecco, quanto ho spaziato nella mia memoria alla ricerca di te, mio Signore, e fuori di questa non ti ho trovato, perché di te non ho trovato altro che ricordi, da quando ho imparato a conoscerti. Già, da che ti ho conosciuto non ti ho dimenticato, perché dove ho trovato una verità, là ho trovato il mio Dio, che è la verità stessa. E da che l'ho conosciuta, non l'ho dimenticata. Così, da te, da che ti conosco, dimori nella mia memoria. Ed è lì che ti trovo, quando mi sovvengo di te e in te mi delizio. Sono questi i miei divini piaceri, che per misericordia mi hai donato, tu che hai rivolto gli occhi sulla mia povertà. Ma dove nella mia memoria dimori? Dimmi, dove? Che sorta di covo ti ci sei scavato? O che specie di tempio vi hai edificato? Hai concesso alla mia memoria questo onore di fartene una dimora? Ma in quale sua parte tu dimori? Questo è il problema. Perché senza dubbio quelle sue regioni e anche gli animali posseggono o le trascese nel richiamare alla memoria te, dato che non ti trovavo tra le immagini delle cose tangibili, e sono giunto alle regioni in cui avevo affidato le mie emozioni, e neppure lì ti ho trovato, e sono entrato addirittura nella sede di me stesso, quella che la mente ha nella memoria, perché ogni mente si ricorda di sé, e neppure là tu eri. Perché come non sei immagine corporea e non sei l'emozione di un vivente, quale si prova quando ci assale la gioia, la tristezza, il desiderio, la paura, un ricordo, l'oblio o qualunque altro stato mentale, così neppure sei la mente stessa, perché tu sei il Signore Dio della mente. E tutti questi stati si mutano, ma tu resti immutabile al di sopra di essi e ti degni di abitare nella mia memoria dal giorno in cui ti ho conosciuto. A che cercare il luogo dove abiti, come se lì ci fossero dei luoghi. È certo che vi abiti, dato che serbo memoria di te, da che ti ho conosciuto e là ti trovo ogni volta che mi ricordo di te. Ma allora dove ti ho trovato per imparare a conoscerti? Perché non eri già nella mia memoria prima che ti ci conoscessi? E dove ti ho trovato dunque per conoscerti, se non in te sopra di me, là dove non ci sono distanze? Ci avviciniamo e ci allontaniamo, eppure non c'è distanza alcuna. Tu sovrasti dovunque verità chi ti consulta e simultaneamente rispondi alle questioni che ciascuno ti pone, per disparate che siano. Limpide sono le tue risposte, ma non sempre limpido è il senso di chi ascolta. Ognuno ti consulta su ciò che vuole, ma non sempre ottiene la risposta che vorrebbe udire. Il migliore dei tuoi servitori è quello che meno si preoccupa di sentirsi dire ciò che vorrebbe e piuttosto vuole ciò che da te si sente dire. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Ecco, eri dentro di me tu, no? E io fuori. Fuori di me ti cercavo, e informe nella mia irruenza mi gettavo su queste belle forme che tu hai dato alle cose. Eri con me, e io non ero con te. Le cose mi tenevano lontano, le cose che non ci sarebbero se non fossero in te. Ecco, mi hai chiamato, e il tuo grido ha lacerato la mia sordità, hai lanciato segnali di luce e il tuo splendore ha fugato la mia cecità, ti sei effuso in essenza fragrante e ti ho aspirato e mi manca il respiro se mi manchi. Ho conosciuto il tuo sapore e ora ho fame e sete, mi hai sfiorato e mi sono incendiato per la tua pace. Quando potrò aderire a te con tutto me stesso, niente sarà per me pena e fatica, e sarà viva tutta la mia vita. piena di te. Ma ora che non sono pieno di te, sono un peso a me stesso. Perché chi riempi di te, tu lo sollevi. Dura questo conflitto tra triste gioie e angosce di cui dovrei giuire, e da che parte stia la vittoria, io non lo so. Ah, mio Signore, abbi pietà di me, eh? Sì, tu lo vedi, non le nascondo le mie ferite, sei il medico tu, io l'ammalato, tu hai la misericordia, io la miseria. Già, non è la vita umana sopra questa terra una prova? Chi non ne farebbe a meno di tutti i fastidi e i problemi? Tu comandi di sopportarli, non di amarli. Nessuno ama ciò che deve sopportare, anche se sopporta con amore. E anche se è capace di gioia nella sopportazione, preferirebbe che non esistessero cose da sopportare. Io, nelle circostanze avvezze, rimpiango il benessere. Ecco, nel tempo del benessere temo le avversità, ma insomma non c'è una via di mezzo dove la vita umana non sia una prova. Maledetto il benessere del mondo. Una volta per la paura che ci mette nei rovesci di fortuna, un'altra volta ancora perché ci avvelena la gioia. Maledetti i rovesci di fortuna. Due o tre volte maledetti per il rimpianto in cui ci lasciano del benessere. E perché le avversità sono dure per se stesse. E perché rischiano di mandarci in pezzi la pazienza. Sì. Non è una prova la vita umana sulla terra e senza tregua. Tu, certo, mi comandi di contenere l'avidità della carne, no? L'avidità degli occhi e l'ambizione del mondo. Hai comandato di astenersi dal concubinato e hai indicato una condizione superiore al matrimonio stesso, che pure hai consentito. Ma ancora vivono nella mia memoria, di cui tanto ho parlato, immagini di quell'altro stato che la lunga consuetudine vi ha impresso. E durante la veglia non hanno la forza di assalirmi, ma nel sonno sì. E non solo fino all'ultimo piacere, ma addirittura finché io acconsento all'atto stesso qualcosa di molto simile. E tanto è il potere che ha sulla mia carne un'illusione, no? Un'immagine della mia mente, che quando dormo delle false visioni acquistano su di me una forza di suggestione quale da sveglio non hanno neppure quelle vere. Forse allora io non sono più io? Mio Dio e Signore, eppure c'è una tale differenza fra me stesso e me, prima e dopo il momento della transizione da qui al sonno o dal sonno a qui, ma dov'è allora la ragione? Con l'aiuto della quale da svegli si resiste a suggestioni del genere e si resta imperturbati all'occorrenza dei loro stessi oggetti in carne e ossa. Chiusi gli occhi, si chiude anche lei? Anche lei si assopisce insieme coi sensi? Eppure spesso anche nel sonno resistiamo, no? Memori del nostro proponimento e persistendovi in perfetta castità non accordiamo affatto il nostro assenso a seduzioni simili. E da dove viene questa resistenza? E tuttavia tale è la differenza che quando le cose vanno diversamente nel corpo a richiedere un sostegno o a chiedere subdolamente d'essere servita invece sia la gola con le sue lusinghe. Ecco, questa incertezza mette allegria, no, alla nostra povera anima, che così se ne fa in anticipo un avvocato difensore, ben lieta che non sia chiaro quanto basta alle norme del benessere fisico per poter, con il pretesto della salute, ricoprire le manovre del piacere. Ecco, a queste tentazioni io mi sforzo ogni giorno di resistere e invoco l'aiuto della tua mano e ti metto da parte i miei ondeggiamenti, perché in questa materia il mio giudizio non è ancora sicuro. Mi ha insegnato, Padre buono, che tutto è puro per i puri, no? Ma fa male a un uomo mangiare in modo da recare offesa ad altri, che ogni tua creatura è buona a niente, Bisogna respingere di ciò che ringraziando si riceve e che non è cibo a raccomandarci a Dio, che nessuno ci deve giudicare dal cibo o dalla bevanda che prendiamo, e chi mangia non deve disprezzare chi non mangia e chi non mangia giudicare chi mangia. Ecco, io questo ho imparato. Te ne ringrazio, te ne rendo lode, Dio mio, maestro mio, tu che hai bussato alle mie orecchie e illuminato la mia intelligenza. Ecco, ma liberami da ogni tentazione. Io non temo l'impurità del cibo, ma quella del desiderio. Circondato dunque da queste tentazioni, io lotto ogni giorno contro la passione del mangiare, del bere, perché non è cosa di cui io possa rompere con un taglio netto, per non tornarvi mai più, come ho potuto fare con l'amore fisico. Alla gola bisogna dunque tenere le briglie sotto controllo, allentandole o stringendole con moderazione. Alle seduzioni dell'olfatto non mi preoccupo troppo. Assenti non le cerco, presenti non le respingo, pronto come sono a farne a meno, anche per sempre. Così almeno mi pare, ma può darsi che mi inganni. I piaceri dell'udito mi hanno coinvolto e soggiogato più tenacemente, ma tu me ne hai sciolto e liberato. Ora, nella musica che anima le tue parole quando le canta una bella voce d'artista, lo confesso, e trovo un certo appagamento, ma non al punto da lasciarmene incatenare. Mi riscuoto quando voglio. Tuttavia, per accedere con me, a me, coi pensieri di cui la musica vive, esige che io le trovi nel mio cuore un luogo non privo di decoro. E faccio fatica a offrirgliene uno adeguato. A volte mi sembra di concederle dignità maggiore di quanta non le convenga, pur rendendomi conto che più intensa è la fiamma di devozione accesa nelle nostre menti dalle stesse parole divine quando sono cantate a quel modo che quando non lo sono, e che tutta la gamma dei nostri sentimenti trova nella sua varietà una corrispondenza di ritmi nella voce, nel canto, ritmi che con la loro segreta affinità evocano i diversi sentimenti. Ma questo piacere carnale, cui non è opportuno la mente si conceda e diventa snervante, spesso mi seduce, ecco, quando la sensazione non si limita ad accompagnare pazientemente il pensiero, cedendogli il passo, ma per il solo fatto di essere stata ammessa per grazia tua, tenta addirittura di precederlo e guidarlo, ecco. Qui pecco, senza accorgermene, me ne accorgo in seguito. C'è ancora la voluttà di questi occhi, della mia carne. E ne farò una confessione che vorrei giungesse alle orecchie del tuo tempio, orecchie fraterne e devote, per chiudere con le tentazioni della concupiscenza della carne che ancora mi battono, nonostante i sospiri e il mio desiderio di rivestirmi della mia abitazione celeste. Amano le forme belle e la loro varietà, gli occhi, e i colori brillanti e lieti. Non debbono essere loro ad avvicinarmi l'anima. Deve essere Dio che ha fatto queste cose molto buone. Ma è Lui solo il mio bene, non loro. Durante la veglia per tutto il giorno colpiscono i miei occhi, non mi danno tregua, come fa la voce di chi canta, e di tanto in tanto ogni voce la tregua del silenzio. La stessa regina dei colori, la luce, che avvolge tutte le cose che vediamo, dovunque io mi trovi durante il giorno, trova mille modi di insinuarsi con le sue carezze, mentre io sono troppo occupato per badarle. Eppure tanto avvolgente e tenace che, se viene a mancare all'improvviso, la si ricerca con nostalgia, e la sua prolungata assenza fa triste la mente. Chi potevo ritrovare che mi riconciliasse con te? Dovevo fare la corte agli angeli? E con che preghiere? Con che cerimonie? Molti, nel tentativo di tornare a te e non riuscendoci da soli, Mi si dice hanno voluto saggiare questa via e si sono lasciati prendere dalla mania delle visioni, sono diventati dei visionari. Beh, se lo meritavano. Nella loro esaltazione ti cercavano tutti impaludati nella loro dottrina, gonfiando il petto invece di batterselo. E per intima affinità hanno attirato a sé le potenze dell'aria, ispirate dal loro stesso orgoglio per lasciarsi ingannare dai loro poteri magici. Cercavano un mediatore che li purificasse, ma non lo trovano. Il diavolo trovano, trasfigurato in un angelo di luce. Molto seduceva la superbia della loro carne, che in lui non possedesse un corpo di carne, ma erano mortali, no? E peccatori. E tu, Signore, con cui cercavo di riconciliarsi, eri immortale invece, senza colpa. Il mediatore fra gli uomini e Dio bisognava che fosse per un aspetto simile a Dio e per l'altro agli uomini. Simile in tutto all'uomo sarebbe stato troppo distante da Dio, ma in tutto a Dio troppo lo sarebbe stato dagli uomini, e così non sarebbe stato il mediatore. Il vero mediatore, che nella tua misericordia, Diosa bontà, hai rivelato e inviato agli uomini perché dal suo esempio apprendessero anche la stessa umiltà. Quel mediatore fra Dio e gli uomini, che è l'uomo Cristo Gesù, apparve fra i mortali peccatori e la giustizia immortale, mortale come gli uomini, giusto come Dio. E questo perché, essendo vita e pace, il compenso della giustizia, per la giustizia che aveva in comune con Dio, annientasse la morte di quelli che pur nella loro consapevolezza furono giustificati. Ecco, morte che con loro volle condividere. E lui, che fu rivelato ai giusti del tempo antico perché fossero salvati dalla fede nella sua passione a venire, come noi lo siamo dalla fede nella sua passione avvenuta, perché in quanto è uomo è mediatore, ma in quanto è parola non sta in mezzo, ma è uguale a Dio. È Dio presso Dio e insieme unico Dio. Come ci hai amati, Padre buono, tu che non hai risparmiato il tuo unico figlio, no? Ma per noi l'hai consegnato agli empi. Come ci hai amati, perché lui, non credendo usurpata la parità con te, pure si sottomise, chino a morire in croce, lui, il solo libero fra i morti, lui che aveva il potere di lasciare l'anima e poi di riprenderla. Per noi al tuo cospetto vincitore e vittima, e vincitore proprio perché vittima, per noi al tuo cospetto sacerdote e sacrificio, e sacerdote perché sacrificio. Lui, che è nato da te, se n'è fatto nostro servo, per farci figli tuoi da servi che eravamo. La ragione è ben salda in lui, la mia speranza. Mi guarirai da ogni malinconia attraverso di lui che siede alla destra e intercede per noi, perché altrimenti sarei disperato. Sono molte grandi, infatti, le mie malinconie, molte grandi, ma più abbondante la tua medicina. Potevamo pensare che la tua parola fosse lontana dall'unirsi all'uomo e disperare di noi stessi se non si fosse fatta carne e non avesse abitato fra noi. Atterrito dai miei peccati e dalla mole della mia miseria, avevo rimuginato in cuore un'idea di fuga nella solitudine, ma tu me la vietasti, facendomi coraggio con queste parole: Cristo è morto per tutti, proprio perché chi vive non viva più per sé, ma per chi morì per lui. Vedi, Signore, la mia angoscia la getto su di te per poter vivere. E mi darò alla meditazione della tua legge, alle tue meraviglie. Tu sai la mia ignoranza e l'incertezza. Tu insegnami. guariscimi. Il tuo unigenito in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza mi riscattò col tuo sangue. Via da me le calunnie dei superbi. Questo fu il prezzo del mio riscatto. E a questo io penso. E me ne faccio cibo e bevanda. E lo dispenso. E da quel povero che sono, mi struggo di saziarmi anch'io di lui, in mezzo a quelli che lo sanno, che cosa sia mangiare a sazietà. Loderò Dio chi ne sente la mancanza.